http://antifa-milano.noblogs.org/. Ma 3 giorni prima dell'inaugurazione del Circolo Cuore Nero, mercoledì 11 aprile 2007, un attentato incendiario nella notte distrugge il coro neofascista, rendendolo inutilizzabile. Il colpo è pesante per i neofascisti che, nonostante l'impossibilità di utilizzare locali, decidono di indire una manifestazione dal titolo Uomini in piedi tra le rovine di Evoliana Memoria. Comunicato stampa ufficiale, 14 aprile 2007. L'Associazione Culturale Aurora Boreale, Cuore Nero di Milano, è una libera e legale associazione culturale apolitica ed apartitica riconosciuta dal Ministero degli Interni come ente di assistenza sociale, dal CONI come ente di promozione sportiva e dalla Regione Lombardia come associazione no profit. L'associazione si occupa solo di attività culturali, sociali, sportive e ricreative. Avevamo preso regolarmente in locazione un negozio per svolgere le nostre iniziative, firmando un regolare contratto e pagando puntualmente l'affitto. Solo per il fatto che fossimo giovani liberi, antagonisti e riconducibili alla comunità ideale della destra italiana, hanno cercato di impedire l'apertura della nostra sede. Prima gli occupanti abusivi della cascina torchiera e poi Rifondazione Comunista hanno creato un clima di odio, tensione e violenza che, alla fine, è sfociato in un vero e proprio attentato terroristico che ha completamente distrutto e bruciato la nostra sede. A questo barbaro, infame e vigliacco attentato terroristico comunista rispondiamo con assoluta fermezza e determinazione, dimostrando ancora una volta la nostra intelligenza, civiltà e cultura. Respingiamo ogni provocazione ed ogni tentativo di minare la pacifica convivenza civile nella nostra città. Non cadremo certamente nella trappola di chi vuole innescare la diabolica logica degli opposti estremismi. Dimostreremo, ancora una volta, alla nostra amata Milano quanto siamo seri, civili ed assolutamente diversi dalla canaglia rossa che oggi ha distrutto la nostra sede e che l'anno scorso ha devastato Corso Buenos. Le bombe e l'odio comunista non fermeranno il nostro impegno sociale, continueremo sulla nostra strada, più numerosi, uniti, determinati e forti di prima. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno espresso la propria solidarietà, i camerati, gli amici, tutte le istituzioni e forze politiche, Fiamma Tricolore, Forza Nuova, Alleanza Nazionale, Lega Nord, Forza Italia, UDC ma anche Radicali, Margherita e Democratici di Sinistra, e soprattutto i tanti cittadini del quartiere che da anni ci conoscono, ci apprezzano e ci stimano. Chiederemo ufficialmente al Comune di Milano, al Consiglio di Zona 8 ed anche al Prefetto e Questore di trovarci, sempre in zona, una sede alternativa. Alessandro Todisco e Roberto Ionghi Lavarini, nelle aspettative dei fascisti, deve diventare una grande manifestazione di area, si intende per area nella loro terminologia politica l'insieme dei partiti, circoli, circuiti culturali e musicali fino al singolo militante o simpatizzante che appartengono o che attraversano la destra radicale. Un'iniziativa che li lanci definitivamente. Realisticamente bisogna dire che non riesce, sebbene la legittimazione politica già ricordata esista da parte dei partiti del centrodestra. Non si arriva alla partecipazione allargata di tutta la base della destra, ma sostanzialmente a un 350 per di più Bonebs, in cui è forte la presenza degli Ameriskins. Il movimento Ameriskins nasce negli USA verso la fine degli anni 80 per mano di alcuni skinheads fuoriusciti, pare per motivi religiosi, dal Ku Klux Klan. Il segno di contraddistinzione di questo movimento è l'esasperato razzismo, posto come fine principale la sopravvivenza della razza bianca. Non sono accettati altri individui, di entrambi i sessi, fuorché skinheads o skingirls se non sono affiliati a nessuna organizzazione politica ufficiale. Rapidamente gli Ameriskins si sono diffusi in Europa con varie sezioni che collaborano tra di loro ma senza crescere vistosamente di numero, tenuto volontariamente basso. È loro intenzione, infatti, costruire un'elite di militanti, le cui caratteristiche sono spesso ispirate alla religione pagana ed ai miti nordici. In Italia ci sono sezioni in alcune città, Milano, Torino, Vicenza, Roma, Palermo, dove organizzano spesso raduni internazionali con concerti ai quali partecipano spesso band Ameriskins. ORAC http://antifa-milano.noblogs.org/ articolo tratto da Liberazione del 5 aprile 2007. Ci sarà tutto il gotha dell'estrema destra a inaugurare, il 14 aprile, l'occupazione non conforme a 200 metri da un vero centro sociale, il Torchiera, già assaltato dagli skinhead fascisti. Se i fasci scopiazzano i rossi a Milano apre cuore nero. Un tempo si chiamavano case del fascio e da lì partivano le spedizioni squadriste contro militanti di sindacati e partiti della sinistra. Oggi, dopo oltre 60 anni, hanno cambiato nome ma non sostanza. Si chiamano con nomi fortemente espliciti, come Casa Pound, la più famosa occupazione della destra radicale romana, oppure utilizzano etichette apparentemente neutre come Comunità Giovanile, Augusto Arsizio, oppure ancora si presentano come pub un po' particolari come l'Asso di Bastoni a Torino. A volte con connotazioni più marcatamente politiche, altre volte invece più mascherati da luoghi ibridi d'aggregazione, sono le nuove rampe di lancio della destra radicale giovanile nel nostro paese e stanno prendendo piede ad un ritmo vertiginoso. Tra pochi giorni un nuovo punto di questa pericolosa rete nera aprirà a Milano. Si chiamerà Cuore Nero e sarà inaugurato ufficialmente sabato 14 aprile in Viale Certosa 311. Per festeggiare i promotori hanno invitato tutti. Fiore, Mussolini, Tilter, Rauti, Romagnoli, Storace, Canu, Staiti di Cuddia, Guaglianone, a comporre una foto completa dell'estremismo di destra degli ultimi 30 anni. Ma a fare da padrini all'iniziativa saranno ci certamente alcuni dei peggiori personaggi del neofascismo nostrano. Guido Girando, giornalista cinquantenne, cresciuto nella redazione del Candido di Guareschi e Giorgio Pisanò, a sua volta fondatore del partito Ossimoro Fascismo e Libertà, ex dirigente nazionale del FUA e componente del gruppo musicale Amici del Vento. Maurizio Murelli, fondatore della rivista Orion e della libreria La Bottega del Fantastico di Via Plinio e famoso dal 12 aprile del 1973 quando, insieme a Vittorino Loi, figlio del pugile Duilio, scesero in piazza per partecipare ad un corteo del Masì con alcune bombe a mano con le quali uccisero l'agente di polizia Antonio Marino. Gabriele Rinolfi, fondatore di Terza Posizione, gruppo armato che negli anni 70 si rese protagonista di decine di aggressioni a sedi e militanti della sinistra romana e vero animatore e promotore di questa rete giovanile di estrema destra. Ma non di solo passato si tratta. La particolare natura delle esperienze che in questi anni sono spuntate come funghi in molte città italiane sta nella capacità di tenere assieme le vecchie generazioni con le nuove, evitando il reducismo delle figure storiche del passato e riattualizzando invece con un immaginario molto giovanile e moderno i miti dare ad un tempo. Sulle loro magliette scrivono calci e pugni, come marca antibuonista alternativa alla modaiola Baci e Abbracci e grazie a Todo, soprannome del leader milanese dell'arcipelago neonazzi e del gruppo ultra irriducibili dell'Inter, insegna di un negozio nella vicina via Pareto che ha fatto da precursore in zona Certosa da almeno un paio d'anni. Ma non solo. Nel dubbio, Mena. Accademia del San Pietrino, Odio Livorno, quarto Oggiaro stile di vita su polo e felpe, con grafiche accattivanti e immagini forti, per trasmettere un moderno orgoglio d'appartenenza ad una comunità militante, così gli piace chiamarsi, che ha la velleità di rivendicare profonde radici storiche ma al contempo di strizzare l'occhio all'immaginario maschio, truce e stradaiolo delle periferie metropolitane. Difatti il network di cui stiamo parlando è quello a cui appartengono gli aggressori del centro sociale Conchetta di due anni fa, tre accoltellati sul selciato, di cui uno grave, del gruppo Ambrosiana Skins della zona Porta Romana e più in generale le giovani generazioni che tra stile Boneheads, Curva Nord, ma ormai anche la Sud, di San Siro si sono rese protagoniste dell'escalation di violente aggressioni negli ultimi tre anni a Milano. A 200 metri dalla nascente Casa del Fascio ha sede da 12 anni il centro sociale Torchiera, già assaltato nel 97 da 50 di azione skinheads, precursori di Cuore Nero, armati di coltelli e spranghe. Poco dopo c'è il campo nomadi di via Triboniano. Meta fissa delle allarmanti speculazioni della destra locale in materia di sicurezza. In zona sono numerose le associazioni di cittadini attive sui temi della solidarietà, della difesa del territorio dalle speculazioni urbanistiche, per la salvaguardia dell'ambiente. Gli emergenti camerati milanesi hanno scelto un luogo non casuale dove rilanciare la loro presenza in città. Scommettono pesante e rilanciano, forti anche di un'azione di contrasto che in questi ultimi anni non ha saputo essere adeguata alle esigenze ed è spesso stata abbandonata e relegata alle dimensioni giovanili dei grossi soggetti della politica cittadina. Che a questo punto però dovrà saper battere un colpo. Necessariamente forte. http://antifa-milano.noblogs.org/ Ecco il comunicato di indizione della parata neofascista, in cui bisogna evidenziare quali sono i referenti politici istituzionali e la base militante. Ringraziamo di cuore le centinaia di amici e camerati che da tutta Italia ed Europa ci hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà, annunciandoci anche la loro presenza. Non potendoli elencare tutti, segnaliamo solo i gruppi e le associazioni, scusandoci anticipatamente per eventuali ed involontarie omissioni. Ambrosiana Skinhead, Amici di Quarto Giaro, ANAI, Associazione Nazionale Arditi d'Italia, Associazione Culturale Corrente di Pensieri di Nettuno, Associazione Culturale Edera di Bologna, Associazione Culturale Europa 2000, Associazione Culturale Lorien, Associazione Culturale Raido di Roma, Bottega del Fantastico, BRN, Brigate Rosso-Nere del Milan, British HM, Camerati del Tiguglio, Camerati di Porta Venezia, Casa Pound di Roma, Centro Studi L'Alamein, Cast Milano, Centro Studi Polaris, Centuria di Bari, Circolo Culturale Sole e Acciaio, Circolo Excalibur di Lonate Bozzolo, Circolo Gabriele D'Annunzio, Compagnia Militante di Monza, Comunità Giovanile di Busto Arsizio, Comunità Militante di Ostia, Comunità Missina Umbra, Coordinamento Sergio Ramelli, DDT, Destra Padana di Inveruno, Ferlandia di Predappio, Generazione Europa, Giovane Europa, Gruppo SAB di Monza, Irriducibili Inter, Nuova Guardia di Milano, Presidio di Milano, Rivista Sintesi, Rivista Tradizione, Sogno di Roa, Sking 4 Skin, UGL, Unione General e del Lavoro, UNCRSI, Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana, Veneto Fonte Skinhead. Ringraziamo anche i due partiti amici che da subito hanno sostenuto ufficialmente la nostra iniziativa, Forza Nuova per la Ricostruzione Nazionale di Roberto Fiore ed il Movimento Sociale Fiamma Tricolore dell'Onorevole Luca Romagnoli, ed i gruppi politici che ci hanno subito espresso la loro solidarietà dopo il vile attentato. Azione Sociale, Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Lombarda Lega Nord. In particolare, è giusto e doveroso ringraziare le tre coraggiose donne parlamentari, onorevole Paola Frassinetti di AN, onorevole Maria Stella Gelmini di Forza Italia ed onorevole Alessandra Mussolini, per le interrogazioni parlamentari subito presentate ed il capogruppo di Alleanza Nazionale al Comune di Milano, Carlo Fidanza, che si è impegnato a trovare un'adeguata sede comunale alla nostra associazione. A tutti gli amici, camerati ed italiani che sabato 14 aprile intendono partecipare alla Festa Popolare contro la Violenza ed il Terrorismo Comunista indetta dall'Associazione Culturale Aurora Boreale e dal Circolo Cuore Nero di Milano e alla quale hanno ufficialmente aderito Forza Nuova, la Fiamma Tricolore e numerosissime associazioni culturali, gruppi sportivi e ricreativi della cosiddetta comunità ideale della destra lombarda, oltre che a singoli esponenti della cultura, della politica, del volontariato sociale, dei comitati di quartiere e decine di simpatizzanti e semplici cittadini. 1. Vogliamo dare una risposta forte e chiara a tutti coloro che inutilmente cercano di intimidirci con la violenza, di tapparci la bocca, di rinchiuderci in un ghetto, di intrappolarci nella suicida logica degli opposti estremismi, creando appositamente un clima di tensione e di odio, magari sperando di innescare chissà quale ritorsione. 2. Intendiamo dimostrare, ancora una volta, a tutti coloro che ci stanno osservando, soprattutto agli sciacalli che inutilmente sperano in qualche nostro errore, la nostra indiscutibile superiore civiltà, cultura, intelligenza e disciplina. Vogliamo mostrare ai milanesi e agli italiani chi veramente siamo. Uomini veri, in piedi in mezzo alle rovine, gente dura e genuina con nervi saldi, cuori puri, valori veri ed idee chiare. 3. Per questo la manifestazione di sabato prossimo vuole e deve essere assolutamente pacifica, composta, ordinata, persino educata e gentile, dimostrando anche plasticamente l'enorme differenza di spirito, principi e stile fra la nostra comunità ideale e la canaglia rossa che ha devastato Corso Buenos Aires. 4. La festa si svolgerà davanti alla sede devastata dai rossi, in Viale Certosa 311, lungo il Controviale, dalle ore 16 alle ore 24:00. Ogni gruppo aderente, previo autorizzazione, potrà esporre, vendere e distribuire il proprio materiale. Per tutto il corso dell'evento sarà in funzione un servizio ristoro. Alle ore 20 ci sarà il saluto ufficiale dei promotori di Cuore Nero e di tutti i rappresentanti dei partiti, associazioni ed istituzioni presenti. Alle ore 21 inizierà un concerto di musica alternativa. Alle ore 24:00 è prevista la chiusura formale della festa e tutti i partecipanti dovranno andarsene in modo ordinato, composto e possibilmente anche silenzioso. 5. Dato il taglio popolare e sociale della festa, aperta ai cittadini del quartiere e a tutti gli italiani di Milano, vogliamo evitare di politicizzare o peggio partitizzare la giornata. Per questo invitiamo tutti i partecipanti a portare solo bandiere tricolori. Altre bandiere saranno vagliate e tollerate nei modi e nei numeri che stabilirà l'organizzazione. 6. Un adeguato servizio d'ordine farà rispettare le sopracitate disposizioni organizzative e logistiche. http://antifa-milano.noblogs.org/. Nel corso della giornata, fra gli altri, interverranno Gabriele Rinolfi, Centro Studi Polaris, Attilio Carelli e Marco De Rosa, Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Luca Cassani, Coordinamento per Romelli, Nicola D'Onofrio, MS, Fiamma Tricolore, Sezione di Paderno, Duilio Canu, Forza Nuova, Lombardia, Benizzi Ferrini, Giordano, Veneto Fronte Skinhead, Fabrizio Fratus, Giovane Europa, Guido Giraudo, Presidente dell'Associazione Culturale Lorien, Marco Mantova, Presidente del Centro Studi L'Alamein, Renato Manusardi, Roberto Migaldi, Associazione Culturale Edera di Bologna, Andrea Misce ed Andrea Cattaneo, Maurizio Murelli, Orion Libri, Franco Navone, Movimento Fascismo e Libertà, Gianluca Norani, MS, Fiamma Tricolore, Sezione Magentino Abbiatense, Oscar Rebughi, Lorenzo Salimbeni, Generazione Europa, Sergio Spinelli, Fiamma Bianca della RSI, i Giovani della Fiamma Tricolore di Milano, il Presidio di Milano, il Gruppo DDT, la Compagnia Militante di Monza, Nuova Guardia di Milano, Sking 4, Skin, il Gruppo della Rivista Sintesi, il Gruppo Sab Monza, Ambrosiana Skinhead, una delegazione dell'Associazione Culturale Raido di Roma, gli Amici di Quarto Giaro, i Camerati di Porta Venezia, la Destra Padana di Inver 1 ed il mitico Camerata Clark, del British HS. Interverranno, a titolo personale, alcuni dirigenti locali, di Milano e provincia, della Lega Nord, di Alleanza Nazionale e di Azione Sociale con Alessandra Mussolini. Impossibilitati ad intervenire hanno, comunque, voluto esprimere il loro sostegno alla iniziativa, inviandoci saluti, auguri e o consigli. Luca Battista, MS, Fiamma Tricolore di Pavia, Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, il principe Lilio Marescotto Sforza Ruspoli di Cerveteri, il prof. Giuseppe Manzoni di Chiosca, Massimo Picozzi, consigliere di Alleanza Nazionale di Zona 8, Adriano Rebecchi, Movimento Nazional Popolare di Verbania, Omar Tonani, MS, Fiamma Tricolore di Lodi, Tiziano Zappa, consigliere comunale di Parabiago e presidente del Circolo Gabriele D'Annunzio, Lucia Visentini e di Camerati del Tigullio e la comunità militante di Ostia. Sono stati invitati il sindaco di Milano con gli assessori ed i consiglieri comunali della Casa delle Libertà, il presidente del consiglio di zona 8 con tutti i consiglieri di maggioranza. FTO Alessandro Todisco, presidente ACAB Cuore Nero, e Roberto Ionghi Lavarini. Preoccupante comunque sono le ramificazioni dell'area coagulatasi intorno a Cuore Nero. Nei gruppi ultra, fino alle BRN del Milan, di Milano e provincia, nei partiti della destra radicale, nelle esperienze definiamole di area, come la comunità giovanile di Busto Arsizio e la comunità militante di Monza. ramificazioni che hanno reso evidenti una presenza diffusa nel territorio milanese anche di luoghi di aggregazione, di diffusioni di materiali e culture, ora egemonizzate da destra radicale, di ambienti che tendono a risaldare la continuità della presenza neofascista a Milano, sia dei reduci RSI che di personaggi degli anni 70. Da ricordare comunque anche la risposta del movimento in quei giorni. Senza entrare più in profondità, e partendo dal fatto che nel 2006 a Milano c'è stata la mobilitazione di Xo Buenos Aires con i suoi sviluppi repressivi, bisogna evidenziare che si è riusciti, nonostante tutto, a costruire un ambito di dibattito e una conseguente mobilitazione che ha contrastato e politicamente combattuto i neofascisti. www.tortiera.noblogs.org. Riportiamo inoltre alcuni articoli comparsi sulla stampa intorno alla vicenda di Cuore Nero. http://antifa-milano.noblogs.org/. Frassinetti, Anne. A Milano clima molto preoccupante. Incendiato circolo di estrema destra, presentato come la sede dell'associazione culturale Aurora Boreale, doveva essere inaugurato sabato. La sede del circolo distrutta, fotogramma. Doveva essere inaugurato sabato, ma il circolo di estrema destra Cuore Nero non vedrà la luce. Nella notte la struttura, in viale Certosa 200 metri dal centro sociale Torchiera, è stata distrutta da un incendio. Le fiamme hanno gravemente danneggiato l'edificio, ma non ci sono stati feriti. Poco prima delle 3, carabinieri e polizia hanno ricevuto numerose telefonate di cittadini che segnalavano un'esplosione nella zona. Oltre alle forze dell'ordine, sono intervenute 5 squadre di vigili del fuoco. Le fiamme, propagatesi dall'interno, prima di essere domate hanno danneggiato anche il tetto e un edificio adiacente di onoranze funebri. Nessuna rivendicazione, il circolo era stato presentato come sede dell'associazione culturale Aurora Boreale e nasceva, viene spiegato in un comunicato, su iniziativa di Roberto Ionghi Lavarini, già dirigente di AN ed ex presidente di Zona 3, e Alessandro Todisco, uno dei capi della curva interista. Per sabato, giorno dell'inaugurazione, era in programma anche la pulizia delle tombe dei caduti della RSI al campo X del vicino cimitero maggiore. Gli organizzatori lo hanno definito un centro rigorosamente politico. Per ora, spiegano gli inquirenti, non c'è stata alcuna rivendicazione né sono state trovate scritte che potrebbero far risalire ai responsabili dell'incendio. Si indaga anche sulle modalità con cui è stato appiccato il fuoco. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'utilizzo di liquido infiammabile. L'incendio e il successivo crollo hanno interessato 2 locali di circa 50 metri quadri più un locale di altri 20 metri quadrati seminterrato. Rischio tensioni, secondo la prima ricostruzione, gli autori del gesto avrebbero versato benzina sotto la saracinesca o nelle feritoie sotto la soglia d'ingresso, e vi avrebbero appiccato fuoco con una miccia. L'esplosione sarebbe invece stata causata dagli ambienti saturi di benzene. Trovati i resti di una tanica. I carabinieri smentiscono collegamenti con un summit antifascista che si è tenuto martedì sera al centro sociale Torchiera, a pochi passi dal circolo incendiato. Gli investigatori non nascondono tuttavia la preoccupazione che l'attentato possa alzare la tensione, con l'approssimarsi delle celebrazioni del 25 aprile. I promotori dell'associazione Cuore Nero hanno definito vigliacchi terroristi i responsabili, spiegando che solo per un caso non è rimasto ucciso nessuno. È stata anche annunciata, per sabato, invece della prevista inaugurazione del nuovo circolo, una giornata di mobilitazione generale di presidio contro il terrorismo comunista, alla quale verranno invitate tutte le istituzioni e le forze politiche cittadine. Incitazione all'odio, l'attentato di questa notte è la conseguenza di un clima evidente di violenza e di incitazione all'odio condotto nelle ultime settimane su alcuni quotidiani, ha detto Roberto Ionghi Lavarini, uno dei promotori del circolo. Giornali come Liberazione, Repubblica e siti web di sinistra hanno premuto perché il centro venisse chiuso, qualcuno ha dato loro retta e queste sono le conseguenze. Alle loro bombe, rispondiamo con il sorriso sulle labbra, ha aggiunto Lavarini, per questo sabato organizzeremo una manifestazione contro la violenza, proprio davanti alla nostra sede distrutta. I promotori fanno sapere che nel quartiere la presenza di questo circolo sarebbe stata molto apprezzata e confidano nella testimonianza di un residente, che avrebbe visto fuggire i responsabili dell'incendio. http://antifa-milano.noblogs.org/. Clima preoccupante, anche Paola Frassinetti, parlamentare di A, condanna l'attentato al circolo Cuore Nero e chiede al governo di non sottovalutare l'episodio. È molto preoccupante, ha dichiarato, il clima che si è creato a Milano da un po' di tempo a questa parte. Il ritrovamento di elenchi con i nomi di esponenti della destra milanese, nonché di locali, palestre, ristoranti e librerie in qualche modo ricollegabili a una certa area, sono la dimostrazione di come anche l'attentato di ieri notte non sia casuale né estemporaneo, ma faccia parte di una strategia violenta e terroristica messa in atto da alcune frange della sinistra antagonista. Secondo Alessandra Mussolini, leader di Azione Sociale, non è un atto intimidatorio, ma un fatto gravissimo, perché ci sono stati dei danni, a ridosso di una campagna elettorale per le amministrative che tutti noi faremo. Mi aspetto che ci sia anche una reazione, perché non è possibile che ci siano reazioni solo quando accadono certe cose a sinistra. Mi aspetto atti concreti non solo dalla magistratura, ma anche dalle forze politiche che sono al governo. Il Torchiera si dissocia, dal canto suo il Torchiera prende fortemente le distanze dall'accaduto. La cascina autogestita Torchiera senza acqua si dissocia da quanto è accaduto la scorsa notte, fatto che in nessun modo è riconducibile al nostro agire e alle nostre pratiche politiche, si legge in un comunicato. Martedì sera presso la cascina si è tenuta una riunione finalizzata a creare una rete democratica antifascista, con l'obiettivo di opporsi all'apertura del circolo nazifascista Cuore Nero. L'assemblea aveva programmato appuntamenti importanti per comunicare al quartiere e alla città una serie di iniziative politiche non violente in previsione della suddetta apertura. L'attentato, concludono i militanti del Torchiera, complica in modo preoccupante il percorso di confronto e organizzazione di rete che stiamo portando avanti con le realtà antifasciste della zona e della città. Nonostante ciò, il nostro lavoro prosegue nella direzione e con le modalità che ci hanno sempre contraddistinto, convinti che una realtà, il cui scopo è quello di riunire le frange più violente e intolleranti della destra lombarda, non abbia cittadinanza non solo nel nostro quartiere, ma in nessun angolo del mondo. Dal giornale Io tifo Camerata. Maglietta viola e bambina per mano davanti alla saracinesca squarciata e al tetto sfondato di quella che sarebbe dovuta essere la sede di Cuore Nero, centro sociale di destra sul modello della romana Casa Pound o della comunità giovanile di Busto Arsizio. In 3.000 si sono dati appuntamento ieri, in fondo a Viale Certosa, per un presidio dopo l'attentato di martedì notte. A pochi metri di distanza il contropresidio degli autonomi del Torchiera, una cinquantina che guardano da lontano prima di assistere alla proiezione del fascisti su Marte di Corrado Guzzanti. Tra i due gruppi solo un tentativo di contatto, subito bloccato dalle forze dell'ordine. Dove sono gli antifascisti? Provocano le teste rasate con la birra in mano. Questa è una festa, ripetono gli organizzatori. Musica a palla, un concerto, tricolori, celtiche e divise da skin. Il Rovodigliacco riesce nel miracolo di riunire tutta la cosa nera. D'Alleanza Nazionale, l'onorevole Paola Frassinetti annuncia anche un'interrogazione parlamentare, passando per la fiamma tricolore, Forza Nuova, Alternativa Sociale. Tanti volti che sono una piccola enciclopedia della destra radicale, come l'anima di quella che fu terza posizione Gabriela Rinolfi oggi impegnato nel Centro Studi Polaris o Maurizio Murelli ora direttore della rivista Orion e artefice della Bottega del Fantastico, la libreria cult della destra. Abbiamo subito un attacco al quale rispondiamo con un presidio non violento, spiega Roberto Ionghi Lavarini, insieme ad Alessandro Todo Todisco fondatore di Cuore Nero. Dimostriamo con i fatti di essere una realtà culturale e per questo motivo abbiamo il diritto di poter esprimere il nostro pensiero. Al comune chiediamo una nuova sede. http://antifa-milano.noblogs.org/. Bomba alla sede di Cuore Nero. Inviato da R. Ionghi Lavorini al sito del Centro Studi Lalamein. Questa notte, mercoledì 11 aprile, circa alle 2:30, una bomba ad altissimo potenziale ha completamente distrutto ed incendiato la sede di Cuore Nero in Viale Certosa 311. Per puro caso, non ci sono state vittime, né morti, né feriti, ma È crollato sia il tetto che il pavimento e sono andati completamente distrutti tutti gli arredi per un danno di oltre 20.000,00. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ed il presidente dell'associazione Alessandro Todisco, che ha sporto regolare denuncia ai carabinieri. Oggi alle ore 13, in viale Certosa davanti alle rovine, si è svolta la conferenza stampa ufficiale dei promotori di Cuore Nero, la cui sede sarebbe dovuta essere inaugurata sabato prossimo. Potevano ammazzare qualcuno, sono dei vigliacchi terroristi. Non si illudano però di piegarci. Reagiremo con assoluta fermezza, civiltà ed intelligenza. Sabato 14 aprile organizzeremo una giornata di mobilitazione generale di presidio contro il terrorismo comunista, alla quale inviteremo tutte le istituzioni, le forze politiche cittadine e la maggioranza silenziosa dei milanesi, hanno congiuntamente dichiarato Alessandro Todisco e Roberto Ionghi Lavarini, principali promotori dell'iniziativa Cuore Nero. È un'associazione culturale apartitica, riconosciuta ufficialmente dal Ministero degli Interni, dal CONI e dalla Regione Lombardia. CH e si occupa di assistenza sociale e fiscale, iniziative culturali ed artistiche, conferenze, presentazioni di libri, concerti, cineforum, mostre e rappresentazioni teatrali, sportive e ricreative, gare, tornei, feste e riunioni sociali. Volevamo semplicemente organizzare, in modo legale ed assolutamente pacifico, le nostre attività in una sede con regolare contratto dove pagavamo, di tasca nostra, un regolare affitto. http://antifa-milano.noblogs.org/. È proprio quello che è successo dopo l'incendio che ha impedito l'apertura del covo ad essere interessante. La solidarietà che diversi settori della destra milanese, da AN all'UDC, passando dalla Lega e FI, hanno espresso si è trasformata in legittimazione dei neofascisti e in supporto, reale, nell'arradicarsi in città, proposta per assegnare un luogo comunale o del pagare le spese di rimessa in uso del covo. Per inciso una solidarietà a cui si è associata anche la sinistra milanese nei suoi dirigenti fino all'assurdo in una sua articolazione locale, IDS di zona 3, zona in cui Ionghi Lavarini, personaggio indipendente di AN cofondatore di CN, è stato presidente, hanno presentato una mozione di solidarietà, di invito all'individuazione degli attentatori e di invito al Ministero degli Interni di pagamento delle spese. Una solidarietà che fa capire quanto l'antifascismo venga complessivamente messo in discussione. Milano 13 aprile 2007. Caro Roberto Ionghi, le battaglie che da sempre ci vedono su fronti avversi non possono esimermi da una profonda solidarietà sui fatti gravissimi da voi subiti al Circolo Cuore Nero. Ti confermo che la mozione è passata come urgente nella seduta di ieri giovedì 12 aprile e messa all'ultimo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta. Il voto è stato unanime. Non sono affatto d'accordo con ciò che dite, ma mi batterò fino alla morte perché nessuno vi impedisca di dirlo. Voltaire. Fernando Martini, consigliere di zona 3DS, Ulivo, MOZION e URGMTE 716, presentato dal consigliere Fernando Martini, gruppo L'Ulivo, nella seduta del 12 aprile 2007. Oggetto. Solidarietà ai responsabili del circolo di estrema destra Cuore Nero, il consiglio di zona 3, visto l'incendio avvenuto presso il circolo di estrema destra Cuore Nero in viale Certosa 311 mercoledì 11 aprile 2007, chiede al SIG sindaco di Milano 1. Di esprimere a nome del consiglio di zona 3 ai responsabili del circolo la nostra solidarietà contro questo attentato. 2. Di farsi promotore presso le forze dell'ordine affinché siano assicurati i due colpevoli alla giustizia. Chiede se provata la dolosità, l'intervento del Ministero dell'Interno per le spese di ripristino dei locali.